Va ora in onda dalla barca dei pirati Opencast Pirata Alfa. Opencast Alfa, la puntata estiva di Opencast Alfa. Estremamente estiva. Siamo in un tentativo di diretta, stiamo cercando di raggiungere in tempo reale i nostri ascoltatori. Nel frattempo non vi preoccupate, stiamo anche registrando, altrimenti come fate a sapere che stiamo facendo questa puntata se non funziona? Ma perché c'è qualcuno che sta scrivendo nella chat. Siamo collegati su IRC, ci trovate sul canale del gruppo Linux Como, gl-como su Freenode, per cui se volete unirvi, unitevi. Qua già ridono, non so che cosa stia arrivando di cose. Leggiamo subito così al volo. Ok, qua non si capisce bene che cosa stanno sentendo. Vogliamo salutare Peter Pan e tutta la compagnia, carissima compagnia. Allora, la domanda della serata è: il nero consuma meno e il nero vestito consuma meno anche? Quindi, cosa hai mangiato stasera? Se mi vesto di nero, dimagrisco. Ho mangiato pesante stasera. Cioè, secondo voi c'è un nesso tra il nero vestito che è sempre più magro e il nero dei monitor che consuma meno? Mi sembra un po' confuso stasera. Sì, la pasta al forno era particolare. Particolare? L'ho fatta io, l'ho fatta. Però Linux 3.1 consuma troppo. L'ha detto Geppetto. No, a tal proposito c'era la prima news della serata. Grazie. col kernel 2.6.39 il consumo medio si aggirava intorno ai 13,9 watt, con Linux 3.1 hanno visto che si aggira intorno ai 22.8, e quindi si stanno un po' lamentando e dicono consuma troppo, vergogna, mi ciuccia il cibo. Ma sai che quando lei è così serio sembra proprio un pirla. Importante, tra l'altro, dare le notizie. Grazie. Bene, quindi... consuma troppo. Perché? Magia nera, presumo. E si ritorna al nero. Vedete, il nero torna sempre in questa puntata. C'era anche un film, se non sbaglio. Si ritorna al nero. Il nero torna sempre. Sì. Il nero torna sempre. Aspetta, era torna, non era torna forse, però. Il nero attorno sempre. Va bene. E quindi niente, consuma troppo, ma cosa c'è, nel senso, ci sono delle cose che si possono fare al momento per limitare questi danni, o è un problema strutturale? La seconda che ha detto, grazie, nei confronti. Mi piace perché lo sto mettendo un po' in difficoltà, faccio delle domande a caso che lui non sa rispondere perché non ha ancora finito di leggere la pagina. 3.1 su che ruota poi alla fine, non ho mica capito io. Sul perno. Sulla ruota nazionale. 3.1 kernel su ruota nazionale. Hai bingo! Ambo secco vanno 112.442 rubli. In questi giorni il caldo si fa sentire, il cervello impappa, le parole escono a caso. Molto a caso. Beh, allora fa sempre caldo quando registriamo noi comunque. Esattamente, eh? Vedo che hai capito. Oppure il cervello è già impappa, a prescindere. È il grande segreto. Comunque io volevo dire una cosa. Sono felice di essere tornato dalle vacanze, perché dopo un intero giorno acolico uno si stanca e vuole tornare a lavorare. Hai fatto le vacanze acolico? La vacanza, un giorno, ma 4 ore. E poi dicono che c'è crisi. Ecco, crisi, esatto. Crisi, ho mangiato anche la pizza. Scusa, ma ai tuoi reni non ci pensi, vai a fare la vacanza acolico così? Ma tu pensa che sono andato... Allora, per piacere, c'è basta pasta al forno. Tiriamola via dal menù. Pasta al forno, veramente. Pasta rasta. Ecco. Allora, parliamo di cose serie. Sei pasta favore, no? Parliamo di Google, che si è comprato Motorola. Io ho comprato Motorola un po' di tempo fa e nessuno ha detto niente. Nessuno. O la compra Google. Lei l'ha pagato in contanti. Io ho fatto un leasing dilazionato. Sai, quei 160 euro... si fa fatica a tirarli fuori. Allora l'ho pagata in comode 42 rate da 112 euro l'una. Forse Google ha usato carta di credito, mi hanno detto, perché ci sono i punti e c'è un viaggio omaggio. No, ha pagato in contanti, aveva il resto del latte. 12 miliardi di dollari di operazione. Ma perché Google ha deciso di acquistare Motorola? Perché Motorola ne sa, fa i telefoni con le tastiere QWERTY. No, è andata così, il signor Google è entrato in negozio e ha detto: vorrei un telefono. Ecco. Ha detto: guardi, abbiamo questo e quello. Quale le piace? Mi piace il Motorola, lo compra, ha comprato tutto. E basta. Certo. Google non ha bisogno di comprare un telefono, lui produce Android, non c'è bisogno che fa un telefono. C'è il sistema operativo. Senza il telefono cosa te ne fai il sistema operativo? Capito? Fai prendere dei soldi a Oracle e a Microsoft in royalty. C'è da dire che gli altri produttori di cellulari Android non sono propriamente molto contenti. LG non l'ha presa bene. Dicono tutti buu. No, dicono tutti altro. E perché erano tutti in negozio, hanno detto: perché potevi scegliere il nostro, che il modello è più bello. Il nostro è invece... Ma infatti questi grossi produttori, soprattutto i coreani, Samsung e LG, mi sembra che stiano già diversificando l'offerta da un po' di tempo con il VIP7. È un mercato di nicchia. Il Windows Phone. No, io sono molto dalla parte di Motorola, perché ho acquistato un telefono QWERTY, no, perché funzica, è bello, e poi soprattutto perché era una delle poche società che non pagava i soldi che avevano chiesto Microsoft e Oracle per ogni dispositivo Android venduto. Sì, perché c'erano delle storie, dicevano che avevano copiato delle cose vecchie. E a proposito di Windows Phone 7, c'è da dire una notizia. Come sappiamo, Nokia ha fatto questa mega partnership con Microsoft. Si è accattata i soldi, diciamo. Sì, per mettere Windows Phone 7 sui suoi telefoni di fascia alta, strabella e tutto quanto. Ma non c'era Nokia quel prima sistema operativo? Doveva far uscire un telefonino molto bello che era il Nokia N9. N9. E con cosa girava? Con Windows 9? Girava con Migo. Migo? Non conosco. Il sistema operativo bellissimo, Linux based, molto bello, che supporta i deb e tante altre cose belle. E la notizia, insomma, la notizia, arriviamo al sodo, la notizia è che Nokia non lo commercializzerà in Italia e in molti altri paesi. Ma come mai? Perché dall'alto gli hanno detto no. No. Com'è che gli hanno detto? No. Vabbè, se gli hanno detto così, cosa volete fare? Allora, l'Italia, io volevo dire una cosa. Diciamolo. Allora, io adesso ho una certa età. Insomma, in Italia di telefoni Nokia se ne comprano abbastanza, no? C'è ancora quell'idea del Nokia comunque come prezzo, prestazione. Quindi è inutile, almeno, cioè, secondo me, vertici Nokia, qualcuno di lungimirante, cioè, dice non bruciamoci, almeno il mercato italiano. Perché dobbiamo vendere un terminale di fascia alta che dopo domani lo abbandoniamo lì? Ma il problema grosso è quello che volevano uscire con questo telefono di cui avevano detto non ci sarà più supporto. In compenso l'avrebbero lasciato in mano alla community di Migo, che avrebbe portato avanti lo sviluppo del 4 drogati operativo. Non sono una comunità come il nostro invece, gruppo non sono una comunità 4 ubriaconi come sviluppo e in chat confermano. Ecco, insomma, chi ha comprato sto telefono, che cosa rimane da dire? Ah, il telefono uscirà, allora, ve la siete cercata, ma con Windows 7. Beh, poteva andare peggio. Potevano darti il telefono senza sistema operativo, dicevano divertiti. Ma quindi questa Motorola continuerà a produrre telefoni? Ma oppure, certo, ma sicuramente, guarda, io volevo Motorola mil mondo i nostri ascoltatori, abbiamo appena sentito il signor Mott, perché è giapponese, Motorola sì, garantisce che lo continueranno a sviluppare telefoni. Chiaramente con questa mossa Google si è anche un po' parata da tutti i problemini legali che ha avuto ultimamente con brevetti vari ed eventuali. Eh sì, perché continuano a dire che comunque molte persone devono prendere dei soldi per ogni dispositivo che arriva da Android, per cui molte case produttrici dicono: beh, ma siamo sicuri che devo fare un telefono per cui poi dovrò pagare dei soldi a Microsoft o a Oracle? Io vorrei solo citare quello che ci scrivono adesso sulla chat, che è: meglio un telefono senza sistema operativo che con Windows Phone. Dico solo questo. Ho capito, ma lo sta scrivendo uno che non ha il computer, quindi non so come lo sta scrivendo, ok? In compenso, le votazioni per l'espulsione di Dark Flash dal GL Como sono arrivate a 4 più 2. Più 2. Siamo a 6. Vai. Stiamo vincendo. Tenuto conto che i membri sono 8 attualmente, direi che Dark, ci salutiamo. Questo è stato bello. Insomma, è andata così. Comunque, non ti preoccupare, facci sapere se va bene Windows Phone. Allora, ultima notizia. Già che stiamo parlando di Android, parliamo di cose serie. Asus aveva fatto quel bellissimo computer, tablet, l'iPad, no? Che è un sistema bellissimo, a parte il colore schifoso, marrone, osceno, proprio obbrobrioso, e che aveva una tastiera che potevi comprarti, che aveva una batteria, e che il problema grosso è che usciva con Android. Stavano già lavorando per metterci Ubuntu, Gentoo, usciva sì di sera, poi non tornava più, era sempre in giro comunque. È uscita una notizia, no, l'Amiga è vecchissima. Allora, è uscita una notizia per cui la nuova versione uscirà con un 10 pollici, sempre con Tegra 2, con Windows Embedded. Cioè, ma Windows 8? Il passerotto. Ma Windows 8 no. 10? Pasta e ceci. Che se ne sapete. 7? Fammi vedere la lettera. No. No, scusa. E 101, 102. Comunque, stiamo parlando di cose serie. Uscirà anche una versione a 12 pollici con Core Duo con Windows 7. Ma cacchio, Android è uscito. È uscito, ma tornerà. Girava così bene, forse. No, io mi rifiuto di prendere un telefono senza Android per poi mettergli su Linux. Ma non parlavamo di computer. Erano altre cose. Direi che a questo punto potremmo fare una piccola pausa, gustarci due o tre in compenso, aspetta, Olive. Olive. Ultima news sui netbook e cose. Vai così. Varie, che Asus sta per rilasciare le X101. Che X, è un X101. Apposta per il porno. In due flavor, diciamo. Ah, usti. L'X101 e l'X101H. Uno sarà con Migo, che stasera compare tantissimo in questo. Quanti soldi open prende cast questo da Migo? Parliamone. Tanti. L'altro per la realtà aumentata. uguale. E poi l'X101H invece avrà Windows 7. Quindi in compenso il costo sarà dell'X101, quello normale con Migo, sarà inferiore ai $200 per un 10 pollici con 2 GB di RAM, processore dual core della Intel che sarà l'Atom N435. Cioè lui, io ho la realtà aumentata, però lui esce con l'amico, cioè quindi insomma. Ah, esci con l'amico? L'amico. Esci con l'amico, esci tu. Hai capito? Caro mio. Ah, c'è l'amico, Cioè, l'amico, è quello che. È allora io mi dissocio dalla musica che stiamo trasmettendo. Cioè è obbrobriosa. Luke Ash con Tonight. Cercata, we'll be right back. Complimenti a tutti i pianisti, perché non è facile. Comunque io mi dissocio. Non è possibile mandare della musica così oscena, ok? Era un gran pezzo, lascia fare. Ho capito, ma ne manca ancora un pezzo, perché qui, cioè, almeno il parlato, qualcuno che dice bla bla bla. È una gran canzone. Grazie. Lui, guarda, lascia fare te, via, basta. Sei stato licenziato. Comunque, volevo dire che c'è io, Coso, Mingo, Geppetto e Clara stasera. Stasera abbiamo un ospite speciale. Ecco, un ospite speciale, Clara, il cane brutto di lui. Davvero, cazzo. E tu vai lì vicino con la bocca. In mezzo alla polvere questi. Abbiamo fatto le vaccinazioni per il Kazakistan, no, sì. Dai, potrebbe andare. Vabbè, comunque. Ah sì, mi stavi dicendo di Crack. Stavo dicendo che state ascoltando Open Castafa, puntata speciale estiva, anche in diretta sul web. Puoi andare avanti. Su Embavo, ok. Io volevo darvi invece... scusa, volevo dire anche www.gl-como.it per trovare tutte le puntate. A proposito di puntate di www.como.gl.it, volevo dire che ho allarmato i canarini e ho aperto il cancello. Bravo. Comunque, hai mangiato il gatto? Ho mangiato il gatto e le tartarughe le ho sotterrate. Bravo. Perché gli ho detto, ragazze, non sentite che freddo che fa? Quindi volevo fare un flash via, una di quelle notizie che si danno. Flashback. Una di quelle notizie che si danno tipo appena arrivato in redazione, la notizia non ancora confermata. Senti la notizia arrivata? Che il Crytek abbia rilasciato nella scorsa settimana, quindi non ancora confermata, ripeto, il kit di sviluppo con cui è stato realizzato Crysis 2, ripeto. Lo si può scaricare, ripeto, Activia, ripeto, prugne, ripeto, la mattina soprattutto stomaco vuoto, ripeto, gratuitamente, anche se solo per progetti non commerciali, ripeto, non commerciali, ripeto. Alessia, torna di là! Ma non era con le prugne. E passo la parola a Gebetto, che ci voleva dire qualcosa dei chattoni. Dei? No, notizie dalla chat. Sono che cosa succede in chat? Sono simili all'infradito i chattoni. Chiarissimo. No, comunque in chat hanno dei pessimi gusti musicali. Lascia stare, non capiscono niente. Assolutamente. È oscena la musica che passa. Non capiscono niente. Esatto. Grazie. Esatto. Assolutamente. Una notizia a proposito di audio: Google Chrome è passato dall'utilizzo di Alsa a Pulse Audio. E quindi Google Chrome è passato all'utilizzo di Alsa a Pulse Audio. Ma non esiste Pulse Audio, è morto anni fa. Pulse Audio. Ma che stai dicendo? È morto da un ciclo. Ma cosa stai dicendo? Ma chi lo usa? Io. E mi trovo bene da solo. E beh, sono da solo sul computer. Ma tu ascolti questa musica? Non sai come si sente bene attraverso Pulse Audio? A 2 bit. Ma ne ha 8. No, non ci credo che arriva fino a 8. Fabio si trova molto bene con molte cose fatte da solo. Molto bene. Mi trovo veramente molto bene e mi sento appagato delle mie scelte. Bene. Ciecato. Ma andiamo avanti su questo Pulse Audio. È meglio. No, sono anche tutti contenti. Dicono Google Chrome inizia finalmente a supportare Pulse Audio. Al posto di Alsa. No, ma questo qui era Audio è la soluzione definitiva. Il nome KDE. Che poi è appoggiato su Alsa, per cui alla fine. Sì, però è. Ma perché ti devi appoggiare su una cosa quando c'è sotto Alsa? Usi Alsa. Hai mai provato Pulse Audio? È più morto. Vai a casa. Sono a casa! Cazzazione. Già che stiamo parlando di browser, come non citare? Citavo. La trasmissione termina qui, grazie per l'attenzione e... Il cervello è completamente andato? Quello era Simonkey o una roba del genere? No, era proprio citavo. Citava. Simonkey, mamma mia, come sei avanti anche tu. Dunque, ovviamente mi riferivo a Firefox. Certo, Firefox che ha avuto questa Firefox. Grandissima idea. È uscita la 6. Di far uscire numeri di versione così grossi. Feature introdotte. Nessuno. Un sacco di plugin rotti. Esatto. È stato molto bello, tutti contenti. Ma stanno facendo anche su Thunderbird, stesso lavoro. Assolutamente. E gli sviluppatori hanno deciso una cosa in seguito alle proteste dei numeri di versione troppo vicini. Han bello che hai detto, ci sono troppi numeri di versione? Non è un problema. Nasconderemo il numero di versione. È ottimo, è un'idea gagliarda. si vocifera anche che ci sarà un plugin per mostrare il numero di versione che verrà rotto ad ogni aggiornamento. Per cui quando non funziona sai che è la versione dopo. Io che mi ritrovo a mantenere una piccola estensione per Thunderbolt mi girano le balle, perché mi tocca tutte le volte che ne esce una versione nuova andare a riaggiornare tutto, perché la versione nuova è cambiata completamente, non posso più dirgli questo plugin è compatibile con tutte le versioni della serie 3. È angosciante. Sì. Questo così. Simon. Che è questa. Andando avanti, volevamo fare un saluto soprattutto ai nostri ascoltatori fedelissimi dal Sud America. No, allora e... ragazzi, parliamo di cose serie col Sud America. Peones. Chi è che conosce il Sud America? È Divi Linux. Ciao Divi. Ciao Divi Linux. È vero che in Sud America ci hanno detto che... Ciao, com'è il tempo lì? Rispondici pure. Niente, ci sono stati un po' di terremoti. Ho capito, scrivici una mail. Un segnale di fumo, un SMS. Mandaci un fox. A proposito di segnali di fumo, mandaci questo fox. A proposito di segnali di fumo, c'è Nokia che continua con i suoi segnali di fumo. Per esempio, se ne è uscito dopo Symbian Anna con questo Symbian Bell. Sì, ma non è un segnale di fumo, quelli lì sono i resti dell'esplosione. I resti dell'esplosione. È la fine della fine, non sì. È neanche l'inizio della fine. E niente, quindi Nokia, se ne è uscita con Symbian Bell, cosa dobbiamo dire? Bravi. Bravi, cioè, insomma... Ma la domanda è, su cosa lo faranno girare? Belle lì, belle. Però su cosa lo faranno girare? Sull'N9. Ma soprattutto, chi si compra un telefono da 290 euro IVA esclusa per poi avere un sistema operativo che non verrà supportato dopo, forse? No, la mia domanda è, ma perché non, per esempio non lo portano per farlo girare sul mio di terminale? Che almeno, cioè, voglio dire, sarebbe carino visto che non mi aggiornano più niente da tipo gennaio dell'anno scorso. Sei tu che te lo sei comprato, tu... Io non t'ho detto di comprarlo. Ma ci hai ancora quel 5800? Esattamente. Zebra. E a proposito di WebKit, di cui si stava giusto parlando. No, non si stava proprio parlando per un caso. Cioè, questa, ma quando? Questa entrata così, scusate, è un'entrata un po' root. Cioè, diciamo che io sono andato in super user, me ne sono fottuto di voi e sono entrato normale, su WebKit e CryptFS. Sapete tutti cos'è CryptFS? Certo, no. E quindi vi passo Geppetto, ciao. Ma perché alla fine... CryptFS è un sistema che ti permette di criptare l'FS. Ah, è per le ferrovie dello Stato? No. Adesso si chiama Trenord. Non riesce a imitare la voce ufficiale. Comunque. Per Vinci Baco. Abbiamo appena perso un altro membro del GL Como. È un declino dorato stasera. Assolutamente. Comunque dicono che Ubuntu è esposto all'esecuzione di codice arbitrario a causa delle falle presenti in WebKit e Java. Fallo! L'ho visto! È il codice arbitrario che sta intervenendo. Minchia, se sono avanti! Il pericolo, come dicono le news, riguarda essenzialmente per Maverick Meerkat e Lucid Links. La cosa non mi tange, comunque. Non mi tange, ma credo che non... T'ha tangiato. Che botta. Che brutte cose. E niente, in pratica dicono aggiornatelo. Ah, ok, bene, ottimo. Tutti molto utili. Mi sembra molto bene. A proposito di uscite e di aggiornamenti, è uscita anche l'ultima nuova versione di LibreOffice. Così. Vai, Libre. E da questa versione di Linux. Va bene, tu sei, ti paga? No, perché sta sviluppando molto LibreOffice. Ah, ok. No, questo non lo sapevo. Nemmeno io. Okay. Però pensavo che fosse Sud America qualcosa. Il fatto che sta in Brasile e che lui vuole andarci in vacanza. Ah, adesso ho capito. Sì, devo venire lì. Ho bisogno dell'appoggio. Però non devo. Sì. Però cioè, sì. Possiamo parlare di Linux poco. Computer anche. Grazie. Venire. E quindi sul quello che sta dicendo Fabrix, volevo aggiungere niente perché praticamente non ho sentito quello che sta dicendo. Stavo dicendo che è uscita la nuova versione di LibreOffice, che questa versione dagli sviluppatori è definita pronta per il business. Come per il business? Io sono quasi 2 anni che la uso. Ma tu sei pazzo. È business ready. Sì. Business ready. Business tipo, ready. Cioè, dice che usciranno fuori i televisori business ready. Certo, tipo HD. Poi ready. C'è anche full business. Full 3D HD Business Ready. Esatto, per LibreOffice. Finito il 3D. Ma lo possiamo... poi torna. Questo, cioè LibreOffice, volevo chiedere, si usa con gli occhialini passivi o con quelli attivi? Capacitivi. Bene, andiamo un'altra notizia molto interessante di cui quasi ci stavamo dimenticando. Ma siamo pazzi? Cioè sì. Che è successa oggi? Ma siamo completamente pazzi? Vabbè, lo dobbiamo dire perché è giusto dirlo. Ho finito di verniciare il garage. Perché lui è un pezzo di storia e ci vuole anche una certa serietà nel dire, dare questa notizia, che io non ho, però ci proverò lo stesso. Beh, insomma, Steve Jobs molla Apple, molla la posizione di CEO più che altro, perché ne ha paga a salute. E giustamente Steve è da un po' di tempo che lotta con la malattia, col cancro, ha avuto un problema, ha avuto un trapezio. Me ne vado, ho deciso. Hai chiuso? Ho chiuso. Si è sentita questa botta. Vabbè, noi dobbiamo dirlo perché comunque è anche grazie a lui forse che siamo qua e stiamo. Se lui non avesse assemblato tecnologie che esistevano super rodate e spacciate per super nuove, noi non saremmo qua a utilizzare magari un personal computer. Che usavo, le mutande? Dai, almeno la Apple del primo periodo, non dico adesso, però Lisa qualcuno se l'ha inventato, no? Lisa dagli occhi blu. E la bamba è brutta, ma le more sono buonissime a casa di Davide. Decisamente. E quindi noi facciamo gli auguri a Cooks, che è il nuovo CEO di Apple. Mi raccomando, continuate a assemblare tecnologie esistenti, fate causa a tutti e vendete prodotti a prezzi stracciatissimi. E niente, Steve, riprenditi se puoi. Guarda, direi che a questo punto, visto che l'ambiente continua ti vorremmo così, vedere seduto a scivolare verso niente, farei un attimo per un drink insieme. Io volevo dire che la puntata di questa sera è diversa da quelle solite, perché abbiamo la finestra aperta stasera e non siamo abituati a registrare con dell'ossigeno. Infatti, dici che è quello che ci manda in pappa, troppo ossigeno. Tenuto conto che all'urlate siamo intorno ai 400 dal livello del mare. Ah, pensavo ai 400 gradi. Gradi. 400 gradi e insomma... Però io lo so cos'è la cosa che più ti turba. Sì. È il fatto che Ubuntu Server 11.10 sarà disponibile in ottobre anche per architettura RAM. Avete dei vecchi moduli RAM e non sapete cosa farci girare? Architettura MRA. Ubuntu Server gira sui vostri vecchi moduli SODIM. TDR e anche TRAM. Sono SODIM, vuol dire così dim. Chu is meglio che Wanda. Allora, per favore, parliamo di cose serie. Ma io direi, mettiamo su un ultimo pezzo. Ho lasciato della SDRAM in frigo. Mettiamo su un ultimo pezzo così giusto e vediamo di schiarirci un po' le idee. Noi ci mangiamo la torta intanto. Esatto. E ci sentiamo dopo, vediamo se è il caso di continuare questo declino, questa follia. Live session, giusto. Non è l'ossigeno? È qualcos'altro. E ci dicono che secondo loro non è l'ossigeno. Ah, ottimo. E c'è anche e quello che sta per essere espulso dice vero. Ma non vale. Non è meno 2. Va bene, quindi abbiamo raggiunto il quorum. Andiamo col brano, facciamo questa pausa, vediamo di capire qual è il problema. Il prossimo brano sono i The Patinets. Penso siano le pattine. Per gli amici. Famose pattine. Va bene, va. Un brano che tratta la tematica del pene e della vagina, che è un tema sempre attuale. The moon with the electric flag is coming down. The moon with the electric flag is coming down. But he don't pretend to be right. Blow your mind. Keep your love fishy ottimi questi fichi davvero che ha portato Loris. Sono nel frattempo uno un po' in una guancia destra e l'altro un po' nella guancia sinistra. Ero talmente preso dal fico che mi sono distratto, non mi sono accorto che stava finendo il Cosa pezzo. Ci sono, scusa? Ci sono due ciotole di fichi e stanno facendo fichi fichi. E dopo aver visto Abbronzatissima su Rete 4 in quarta serata, io direi che ne abbiamo sentite veramente di tutti i colori. Comunque la musica è bellissima e smettetela in chat di dar fastidio. Ma soprattutto le persone già bannate. Noi in questo momento stiamo mangiando dei fichi perché Loris ha deciso che non vuole essere come tutte le persone pazze di questo mondo che usano Green Farm su Facebook o applicazioni varie, e ha detto beh, me la pianto veramente la roba nel giardino, e quindi stiamo degustando degli ottimi fichi. Bravo. A proposito di come Facebook e di Farm e queste applicazioni, galleria, Facebook è in fermento perché è stata aggiornata l'interfaccia. Cacchio, Tega, non mi puoi chiamare adesso, c'ho una telefonata. Vabbè, vado avanti io? Sì, vai. Pronto? Ciao. Vado sul balcone. Ah no. Tega, sono... dimmi. Ecco, risposto. Diciamo che stanno fatto l'aggiornamento dell'interfaccia e adesso... Però Loris sapeva questa notizia, io al massimo la leggo. No? Hanno aggiornato l'interfaccia. È più interfacciosa. Hanno spostato i bottoni e adesso la gente non sa più come uscire. Perché non vogliono che tu esci. Esci, no, no. Perché? Sei sicuro? Mi piace. Esci da questo corpo. Comunque, hanno integrato Ticketmaster in Facebook. Ticket One si chiamava. No, è Master. E su Facebook è arrivato anche The Sims Social, per cui da questo momento chi è registrato a Facebook potrà condividere quando il loro sim va in bagno. Questo era quasi marcio. Mi spiace. Ma dicono che ne abbiano un sacco di utenti, io non lo so, non ci sono. Io. No, io no. Sono una sirena di qualche tipo. Una bitonale. E la grande, forse la cosa più interessante per chi è iscritto alla piattaforma è il noleggio dei film di Miramax. Che ficata, era veramente un commento pessimo con in mano un fico. Ma è già uscita Una notte da leoni 2? Non credo, perché parlavano dei classici. Una notte da leoni 2 è un classico. Lo trasmettono. No, no, quello si chiama scaricamelo. È diverso. Non si fa, no. Comunque con Ticketmaster che approda su Facebook. Loris, cosa voleva? Niente, sta comprando una moto, però gliela devo comprare io alla fine perché... No, no, allora, smettila, no, smettila non lo sto di io. Comprare moto. La deve comprare un no, mio amico. No, io non te la sistemo. Io giuro che la deve comprare non un mio amico. Non te la sistemo. La deve L'amico. È, sì, no, vabbè, ma parlaci te, poi c'hai tu, c'hai la mail. Ho detto, perché te non ce l'hai? Sì, ma io, vabbè. E ho detto, ma tu c'hai il telefono, perché tu non ce l'hai? Io non saccio scrivere. Ecco, io non voglio sapere niente. Ah, Peppinello, quelle pizze diventano due. A proposito, quindi avete detto che Facebook ha fatto questa bella roba. E invece, una bellissima notizia che stavamo per darvi, che veramente c'ha dell'incredibile. Ma l'avete già data quella di Samsung e di Apple? No, non ancora. Ecco, allora la sto dando io. Tanto la sanno tutti. E chi cani la sa, e porci. Ormai la sanno tutti. Apple ha fatto causa a Samsung dicendogli: ma sapete, il vostro tablet è troppo simile all'iPad. Al nostro iPad. E perché? Attenzione. Perché non ha tasti? Ma sì, ma che ne so. Ma cioè... perché questi qua hanno fatto il tablet? Allora, un tablet che cos'è? Uno schermo con dietro un computer, fondamentalmente, ok? Quindi è dietro la tastiera. Senza tastiera. È un po' come le Polo, il buco il con la buco mente con intorno. La mente intorno, esatto. Per cui. E ti ha salvato il piede, però. E la cosa è, cioè, uno che fa. È partito un dito! È come dire, no? Io costruisco un computer, un portatile. No, si è scollegato. Costruisco un portatile. Come lo faccio? Faccio un monitor e la tastiera con sotto il computer. Uno arriva a dire, però no, hai fatto. È troppo uguale al mio. Esatto, hai fatto un portatile troppo uguale al mio, ma sei scemo. Cioè, ecco, faccio un orologio da polso, c'è il display e il cinturino. C'è l'orologio, allora, c'è il polso, no, quel polso è uguale al mio. Esattamente, però grandissima mossa di Samsung, gliela messa lì e fa, oh belli, guardate che noi mica ci siamo ispirati all'iPad, noi ci siamo ispirati a niente po' di meno che 2001, Odissea nello spazio, del 1968, in una sequenza della durata di circa un minuto si vedono questi astronauti che stanno mangiando e hanno i tablet lì a fianco. Tra l'altro apprezziamo, torniamo a Motorola, che salutiamo Motorola. Ciao Moto! Apprezziamo tantissimo che a suo tempo fece lo Star Trek ispirandosi a lo Star qualcosa di Star Trek, insomma il communicator di Star Trek, quello che si apriva, e lo ha messo, insomma, ha detto noi ci siamo ispirati a questo. Pensa che l'iPad in realtà è nato dalle tastierine, dalle tavole della legge di Mosè. Eh? Quali? Le ho viste sul video. Hai visto le tavole della legge di Mosè? Sul video. Sul video. Video. Certo. Vimeo. Va bene, io direi che a questo punto potremmo anche concludere qua. Direi che... Dove? Abbiamo, sì, abbiamo raggiunto il fondo del barile, abbiamo cominciato a grattare. Ma prima vorremmo farvi sentire un piccolo intervento. Mi sta mordendo. Ok, niente, intervento. Va bene, abbiamo tentato di intervistare ancora la Clara, ma... Non funziona. Si nega i microfoni. È un peccato. Direi di chiudere qua con questa puntata di Open Castaffa. Ormai l'ora si è fatta tardi, un pochino di aria leggermente fresca. Sono le 8 meno 6 minuti. Sì, stavo notando che sono le 8 meno 6 minuti dalle 7 quando sono entrato qua. Clara, non lo vuoi leccare un po' il microfono? Vabbè, lo lecco, no. Io. Lo lecco io. Okay. No, vabbè, no, cioè... salutiamo i nostri amici in chat che non ci sentono più perché, ciao chat, ci sono stati problemi di centralizzazione rete IP, ciao Dark, e Dark dire Fender, parole tecnologiche a caso, rubrichetta delle parole tecnologiche a caso, 30 secondi che ci preparano la base, non c'è, la faccio io, tu fai la base, no, fai la solita base. Come la che faccio, fa? Io faccio la base. Parole tecnologiche a caso. Netlog. Mutanda. Ubuntu. Tassello. Non hai specificato di tecnologia, stiamo parlando. Diodo. No, per favore, Non tiriamo in ballo certe cose. Aspetta, ce n'ho io uno. Mindboard. Bravo, bravo. Basta, è finito? No, vai pure avanti. E altre fiche. Pentola a vapore. Diodo. L'hai già detto. Wireless. Wireless pirata. DDR3. Lano. No, cioè, no, che... Lano è la tecnologia MD. Cioè Lano si chiama Lano. Ah, MD, sì? Lano, sì. Lano, sì, APU, c'è cioè un APU qualcosa per APU, sì, Lano. Aspetta, perché qua stiamo cercando qualcosa di strano. Pirate, veramente, veramente tanta roba. Non capisco cosa vuol. You are a pirate. Your heart filled with tears. Being a pirate is a wretched thing. Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. You are a pirate. Avete ascoltato Opencast Alpha, il podcast tecnologico disimpegnato del GL Como. Tutti i link e le puntate su www.gl-como.it. Arrivederci.